24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Prima abbiamo discusso anche un po' animatamente di quella che è comunque la notizia che domina, come potete immaginare, tutte le prime pagine dei giornali, cioè le consultazioni per cercare di formare un nuovo governo al più presto. Cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che però titola sull'altra grande notizia di ieri, notizia economica, che sono le dichiarazioni di Mario Draghi, presidente della BCE, che ha confermato che il cosiddetto QE, cioè quantitative easing, che è quella politica monetaria attuata dalla BCE acquistando titoli di Stato per sostenerli, continuerà, anche se verrà ridotto, perché da aprile l'acquisto di questi titoli di Stato da parte della BCE sarà di 60 miliardi. Ha dovuto precisare Draghi, perché i tedeschi sarebbero stati subito pronti a dire il contrario, che non è un aiuto all'Italia ma all'intera zona euro. Poi altre cose del Sole 24 Ore ce le sottolineerà, ce le ricorderà poi Mauro Meazza, che come sempre sarà con noi intorno alle 7.40. Il Corriere della Sera fa un'ipotesi forse un po' azzardata, vedremo, perché come ieri mi sento di leggere i titoli dei giornali di oggi, che però sono aggiornati a quello che è successo, diciamo, entro mezzanotte. Dopodiché oggi ci sono altre consultazioni, domani ce ne saranno altre, quindi in questo momento si fanno veramente solo delle grandi ipotesi. E il Corriere della Sera, per l'appunto: crisi si accelera, lunedì l'incarico per il governo, mandato a Renzi o esecutivo istituzionale, vedremo. La fotonotizia dedicata a questo super weekend, che poi tra l'altro a Milano è stato forse anche qualcosa di più, perché il 7 era Sant'Ambrogio, ieri l'Immacolata Concezione, molti oggi hanno approfittato appunto per fare questo ponte di 5 giorni. E allora la fotonotizia appunto di ragazzi che stanno già sciando, tradizionalmente l'8 di dicembre quando si inaugura la stagione sciistica, un popolo di pontisti low cost, ce lo racconta poi Dario Di Vico a pagina 25. E tra l'altro già ieri proprio sul Sole 24 Ore ce l'aveva segnalato proprio Mauro Meazza, c'erano i dati dei vacanzieri che sono aumentati in questo super weekend del 12,9% gli italiani, preferendo tra l'altro appunto restare in Italia. La Repubblica ha un doppio titolo che mette insieme quello che è successo ieri, colle in pressing avanti con Renzi, e appunto questa dichiarazione di Mario Draghi, un altro anno di aiuti BCE, aiuti generali. La fotonotizia è, in realtà, fa riferimento a un'inchiesta che poi trovate alle pagine 14 e 15, a dir poco inquietante. Il titolo è questo: sisma, i lavori alla ditta sotto processo. Che cosa è successo? Che dopo il terremoto del 24 di agosto ad Amatrice, Sono stati affidati i lavori di ricostruzione. Tra le ditte a cui sono stati affidati ci sarebbe appunto questa, che è accusata di traffico di rifiuti con i camion dei casalesi. E poi non avremo tempo di leggerlo, ma ve lo segnalo se qualcuno di voi oggi magari ha più tempo da dedicare alla lettura dei giornali. Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, ripercorre la figura di Rasputin. Sapete che addirittura ormai quando uno dà del Rasputin a qualcun altro è per indicare che è un consigliere dagli intenti poco chiari. È stato consigliere naturalmente dell'ultimo zar, morì a San Pietroburgo il 16 dicembre del 1916, e proprio da Rasputin inizia questo viaggio in Russia di Ezio Mauro. Rasputin, il monaco nero che annunciò la fine dello zar. Il Messaggero: tempi stretti, pressing su Renzi. La foto è quella di Renzi che saluta ieri dalla sua vettura. Abbiamo sentito prima che gli hanno anche strappato questa dichiarazione. Lui è tornato anche a usare un'espressione toscana per dire: vo a prendere i miei figli. Quindi ieri era una giornata apparentemente di riposo in famiglia per Renzi. L'Unità: ci aspetteremo di trovare magari qualche informazione in più sull'Unità, che è il giornale del Partito Democratico. E invece il titolo è questo: la prima volta di Mattarella. Ma va, lo sappiamo che è la prima crisi di governo di Mattarella, quindi nessuna notizia particolare, nessuna retroscena particolare. Al via le consultazioni al Quirinale, il capo dello Stato vuole chiudere la crisi in tempi rapidi. Ma l'ipotesi di Renzi bis si scontra con il no di Renzi, PD diviso tra sospetti incrociati. E questa è coraggiosamente un'analisi effettivamente di quello che sta succedendo. Dico coraggiosamente perché l'Unità è, a parte che era schierata per il sì a partire dal suo direttore Sergio Staino, e comunque è il giornale, diciamo, della maggioranza del PD, quindi di Renzi. Ma la fotonotizia, molto interessante, perché questa ho trovato poi questa notizia solo sull'unità. La fotonotizia è legata a quello che sta succedendo in Israele, una delle tante in Israele e in Palestina, una dei tanti conflitti irrisolti e dimenticati, a meno che non succeda poi qualche fatto di cronaca quasi sempre non positivo, che ci riporta a parlare appunto di questa eterna crisi in Medio Oriente. E il titolo è: Israele legalizza le colonie, un altro colpo alla pace. Questa è una lettura naturalmente dell'Unità. Il Parlamento di Israele vota in prima lettura la legalizzazione di 4.000 insediamenti su terreni privati palestinesi in Cisgiordania. La sinistra israeliana protesta, i palestinesi chiedono l'intervento dell'ONU e il presidente degli Stati Uniti Trump si è schierato con quelli che l'Unità definisce i falchi, cioè appunto non la sinistra israeliana ma quella che ha approvato questa legalizzazione. Sapete che il tema degli insediamenti in terra palestinese è da sempre uno dei punti sui quali non si riesce a trovare un accordo per arrivare, si spera sempre, a una pace definitiva in quell'area. La stampa, crisi, Renzi sotto assedio nel PD, quindi qui la stampa sceglie di sottolineare come dietro a questo stallo ci siano anche le lotte intestine. La fotonotizia però è dedicata a un articolo che poi trovate a pagine 12 e 13 di Federico Taddia, che naturalmente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, e il titolo è Babbo Natale quest'anno vorrei, perché in questo articolo si raccolgono le lettere a Babbo Natale di tantissimi bambini. In particolare all'interno, come dicevo, trovate altre foto, ma in prima pagina ci sono quella di Morena, che ha 9 anni, è di Buenos Aires, e quella di Maxim, che ha 4 anni ed è di Belgrado. Il suo desiderio è un bel dinosauro di plastica, mentre Morena vorrebbe una chitarra elettrica. Il Foglio invece ha una, ieri c'era un'analisi del fondatore Giuliano Ferrara, ora editorialista, oggi invece c'è un'analisi del direttore Claudio Cerasa, intitolata Se Renzi si dimette da Renzi. Può esistere un progetto riformista in un'Italia tornata a trasmettere le pellicole della Prima Repubblica? Perché in effetti questa liturgia delle consultazioni, del rincarico, sì o no, governo tecnico, purtroppo sì, è una cosa da Prima Repubblica. Claudio Cerasa, i grossi guai della rottamazione non riguardano questa legislatura, ma il destino di un progetto politico. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, che titola sulla crisi con PD, patto tra correnti, Renzi rimane isolato. Quindi qui ci sono dei retroscena su quello che sta succedendo appunto dietro quella porta chiusa della direzione generale dei PD. Ma la buona notizia è c'è un collage in prima pagina di 12 foto, ma in realtà sono ancora di più i locali che aderiscono a una campagna del comune anti-slot, ci mettono proprio la faccia. Forse all'ascoltatore che prima mi chiedeva via WhatsApp di dargli una buona notizia, perché oggi è il suo compleanno, difficile trovarne, ma questa forse è una buona notizia, cioè il fatto che questi 50 baristi di Genova dicano palesemente no, nei nostri locali le slot machine non entrano, è una campagna naturalmente anti gioco d'azzardo. Poi ne ho trovata anche un'altra di buona notizia, se ha la pazienza di aspettare poi gli segnalo anche quella, non è legata all'Italia, questa invece sì. Il titolo di Libero è stranamente forse l'unico giornale che non titola sulla crisi di governo, ecco chi ci porta i profughi, perché Paolo Becchi e Cesare Sacchetti poi a pagina 9 hanno fatto una ricognizione, una sorta di mini inchiesta sugli scafisti. Gli scafisti lanciano le richieste di soccorso quando sono ancora in acque libiche e le navi delle organizzazioni umanitarie vanno a ritirare il carico di disperati a comando. La Guardia Costiera, secondo Libero, osserva tutto senza intervenire. In prima pagina su Libero vi segnalo anche un articolo di Giuseppe Cruciani, chi vorrà poi lo trova tutto a pagina 14. Io in realtà preferisco non leggerlo perché su alcune cose non sono molto d'accordo, ma è come sempre molto polemico. Si intitola Crocifisso per uno spogliarello mai fatto, il riferimento è alla vicenda dell'allenatore del Pescara, che ha detto che se per caso, insomma, se le cose vanno bene alla sua squadra fa uno spogliarello, anzi no, forse lo spogliarello è meglio che lo faccia una ragazza, e questa dichiarazione non è stata ben accolta, secondo Giuseppe invece, insomma, è tutto tanto rumore per nulla. Ma ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. 24 Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali che quasi tutti abbiamo visto titolano sulla crisi di governo, e poi ci sono innumerevoli retroscena. Ci mancavano ancora Il Giornale, che devo dire ha un titolo molto efficace: o la poltrona o la faccia. Renzi perde comunque, questa è l'opinione del Giornale, che anche poi pubblica in prima pagina anche l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti. Mattarella inizia le consultazioni con un obiettivo: nuovo governo entro il 15 dicembre. Il Corriere parla di lunedì, Il Giornale invece del 15 dicembre. Matteo è ormai in un vicolo cieco e pensa a farsi un partito. Ma a proposito di consultazioni, Il Giornale a pagina 3 pubblica con grande enfasi, quindi anche facile da trovare, facile da leggere, il calendario degli incontri di oggi. Ed è abbastanza divertente, perché diciamo il piatto forte è domani, quando Mattarella incontrerà Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Oggi invece incontra delle rappresentanze che io personalmente non ho neanche mai sentito nominare. Per esempio, alle 12 incontra l'Unione Sudamericana degli Emigrati Italiani, alle 10.40 la Südtiroler Volkspartei, vabbè, di questa abbiamo sentito parlare, poi la minoranza linguistica della Valle d'Aosta, e poi non so, per esempio alle 17.30 un gruppo che si chiama Civici e Innovatori. E va bene, questo è il Parlamento italiano. La Verità: un uomo solo, non al comando ma allo sbando, mandate un'ambulanza a Palazzo Chigi. Anche qui l'editoriale del direttore della Verità Maurizio Belpietro. Avvenire: ipotesi governo PD tra virgolette di responsabilità. Anche secondo Avvenire ci sarà una decisione già lunedì. Ma c'è la fotonotizia di Avvenire che, come dicevo, ci riporta a tutte le crisi che ci sono in questo momento nel mondo e di cui non ci occupiamo. Qualcuno potrebbe rispondere, ma tanto non possiamo farci niente. Non lo so, questa secondo me viene una notizia che viene dall'Africa e fa molta impressione. Riguarda il sud del Sudan, c'è una denuncia dell'ONU, è carestia e pulizia etnica, quindi di nuovo questa martoriatissima regione dell'Africa, e in particolare questo paese, il sud del Sudan, ancora appunto dove c'è questa umanità in estrema sofferenza, sia per la guerra civile sia per la carestia che incombe. Il Manifesto: il capo dello stallo e non dello Stato, e tra l'altro la foto non è quella dell'attuale capo dello Stato Mattarella, ma di l'ex capo dello Stato Napolitano, che ieri è stato tra l'altro visto da Mattarella. Forse una buona notizia, anche come viene dall'estero, sempre a caccia appunto di buone notizie, c'è un ascoltatore che ironicamente dice: forse una buona notizia per Meazza e gli altri interisti, per Mauro Meazza, interista, per me, dice l'ascoltatore, che ieri sera finalmente l'Inter ha vinto. Ma per chi invece non è tifoso dell'Inter o comunque in generale, sul Manifesto in prima pagina, secondo me questa è una buona notizia. In Libano è stata annullata quella odiosa disposizione che aveva reintrodotto l'immunità agli stupratori a patto che sposino le loro vittime. Un successo grazie alla campagna di Abad, una piccola ONG con sede alla periferia di Beirut, e dove si fa festa. È un grande giorno, ci dice sulla Yama Bardan Bey, il servizio lo trovate poi a pagina 9, una delle responsabili della ONG che si batte per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ultima prima pagina che vi segnalo, poi passiamo alle pagine interne, è quella del Fatto Quotidiano: le grandi manovre per non votare mai. Questa è la tesi che appunto nessuno voglia davvero, del Fatto Quotidiano, che nessuno voglia votare al più presto possibile dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale il 24 gennaio, ma si voglia andare oltre. E prima di passare alle pagine interne, però, sempre a proposito di buone notizie, come avevo promesso all'ascoltatore che oggi compie gli anni, da Internazionale, che in edicola in realtà da ieri, perché normalmente esce il venerdì, ma ieri era festa, quindi è uscito ieri, pubblica un articolo, traduce un articolo da Brand Heinz, che è un mensile tedesco, e racconta questa bella storia sociale da Parigi. Nel quartiere parigino del Marais, un'azienda mette in contatto chi ha bisogno di piccoli lavori con le persone disposte a farli. È anche un modo per spingere i vicini ad aiutarsi. Ma passiamo alle pagine interne, e questa non è una buona notizia, viene dalla Turchia, però è giusto appunto parlare di quello che sta succedendo in Turchia. È un'intervista di Alessandra Coppola a una scrittrice turca, Asli, che tra l'altro si chiama Erdogan, che rischia l'ergastolo, è già in prigione, e racconta appunto, ricorderete tutti, dopo il golpe e il controgolpe, o meglio il fallito golpe del 15 luglio in Turchia, Ricorderete tutto la reazione di Erdogan, che ha incarcerato migliaia, questo è quello che sappiamo qui, migliaia di persone che lui considera nemici e che appartengono sia alle forze dell'ordine che all'esercito, che al corpo degli insegnanti, molti giornalisti. Purtroppo appunto non si parla più di questo, ma intanto Alessandra Coppola con questa intervista dà voce appunto a questa scrittrice che ha 49 anni, era anche consulente di un giornale filo curdo ed è stata arrestata ad agosto con l'accusa di terrorismo. Un'altra bella intervista di Giovanni Bianconi, due pagine sul Corriere, pagina 18 e 19, a un'altra persona che si trova in carcere, che è Marcello Dell'Utri, ex grande potenza di Forza Italia, prima di Publitalia, poi di Forza Italia, è stato arrestato nell'aprile 2014 a Beirut, è stato poi estradato e da maggio 2016 è a Rebibbia. Il titolo dell'intervista: si avvicina alla fine, perché Dell'Utri ha 75 anni ed è stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, e il virgolettato è: dovevo farmi arrestare prima. L'altra sintesi del senso di questa intervista è: mi sento come un prigioniero della guerra a Berlusconi. Dalla Repubblica invece vi segnalo un'altra, purtroppo non è una buona notizia, è un sondaggio che non ci dà una buona notizia secondo me, perché l'Italia sarebbe prima in Europa per xenofobia. Uno su due appunto delle persone interpellate da questo sondaggio di YouGov dice: non mi sento più a casa mia. E tra l'altro questo fa un po' anche, possiamo associarlo al dato che ha reso noto ieri l'Unione Europea, che sarebbero irregolari l'80% degli immigrati che arrivano nel nostro paese. Sempre su Repubblica, legato sempre al tema dell'immigrazione, i sindaci antiprofughi in Lombardia e Piemonte, 2000 no all'accoglienza. C'è proprio una mappa di questa famosa accoglienza, appunto, che queste quote con la suddivisione tra comuni del numero di persone che dovrebbero essere accolte. Però forse Mauro è già pronto, ieri abbiamo sforato Mauro, oggi stiamo più attenti, abbiamo tempo fino alle 44:30 per raccontare cosa c'è oggi sul Sole 24 Ore. Caspita, buongiorno Giulia, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito alle cose puntuali. Tu sai quanti commi sono contenuti in un solo articolo della manovra? Forse no, te lo dico io, 638. È una manovra, diciamo, stabile, oramai è legge. Merita 8 approfondimenti sul Sole, giusto? Ed è così, infatti oggi cominciamo da quello probabilmente più atteso, l'APE. L'anticipo pensionistico, come sai, l'APE, di APE ce ne sono tre: c'è l'APE cosiddetta sociale, poi c'è l'APE volontaria, quella che uno può far decidere le proprie spese, e quella poi aziendale, invece col supporto quindi dell'azienda. Allora, tu sei molto giovane e non ti interessi di queste cose, ma coloro che invece sono in prossimità a 3 anni e 7 mesi per la precisione dalla possibilità di ritirarsi, leggeranno con interesse questo primo degli 8 approfondimenti sulla legge di bilancio, oggi nelle pagine di Norme e Tributi, come sempre da leggere religiosamente. Poi, ancora sulla manovra, ti voglio segnalare questo conto delle varie spese che sono stanziate, anche qui nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, perché si va naturalmente da questo maxi fondo per le infrastrutture, dove ragioniamo in termini di miliardi, a spese invece più micro, più piccole, come è un po' da tradizione in questi casi. Naturalmente molto spazio alle decisioni di Draghi, alle decisioni della Banca Centrale Europea, soprattutto anche con l'ampliamento dei titoli che possono essere acquistati. Sono questioni che non possiamo chiaramente esaurire in 30 secondi, ma ti segnalo a pagina 3 un utile specchietto riassuntivo che poi ti può fare da guida appunto su tutti gli articoli di approfondimento che trovi in quella pagina e in quelle che sono confinanti, la 2 e anche la pagina 5. Cercavi buone notizie, mi pare. Sì. Allora, ti do una buona notizia, insomma, le nostre procedure di infrazione, sai, quando non ci adeguiamo alle direttive e regolamenti comunitari, ci bacchettano, soprattutto paghiamo delle multe, che è la cosa più fastidiosetta, sono però in calo, sono calate da 119, sono diventate 70, quindi abbiamo fatto un bel recupero. Teniamo conto che queste infrazioni ci costano 300 milioni all'anno, quindi insomma, se si recupera qualcosina da lì, se non si sprecano i soldi, è sempre un bene. Invece non è proprio forse da scrivere tra le buone notizie, ma sicuramente tra gli articoli da meditazione, il contributo di Mariano Maugeri sul campo fantasma di Norcia. Quindi torniamo sulle questioni del terremoto, delle popolazioni colpite dal terremoto. Devo dire, non ce ne siamo mai allontanati, perché quasi ogni giorno ci sono questi resoconti, approfondimenti sul Sole 24 Ore. Questo campo che in qualche modo era un po' burocraticamente disperso, è intervenuto però l'esercito a cercare di garantire una continuità, un'assistenza alle persone che sono ospiti, che sono persone che non possono allontanarsi da Norcia per motivi, ad esempio, di lavoro. Oh, poi oggi è venerdì, giusto? Sì. Secondo me è venerdì perché oggi con il Sole 24 c'è Moda 24, che sono le pagine dedicate appunto al mondo della moda, al settore della moda. Non so se hai avuto occasione di vedere questo articolo sul reshoring, molto interessante, un'azienda di cui non facciamo nomi, ma proprio a firma di tal Giulia Crivelli. Vabbè, questa volta ammetto di conoscerla, perché mi sta molto, sta molto a cuore anche a me questa storia. È molto interessante, cioè reshoring vuol dire produciamo in Italia, torniamo a riportare produzione in Italia perché le facciamo meglio, questo detto in estrema sintesi. Molte altre cose vorrei dire, ma vedo che il tempo corre, e allora ti segnalo che invece, altro articolo direi da meditazione, parlavo di Europa, di Unione Europea prima, il ricollocamento dei migranti nei vari paesi procede con un passo decisamente lento. Siamo a 8.000 persone che hanno trovato nuova sistemazione, ma andrebbero ricollocate 160.000. Tutto questo da Beda Romano. Altro non ti posso dire, però naturalmente buon fine settimana, buona domenica e soprattutto traffico! Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati all'ultima parte della nostra rassegna. Grazie a tutti gli ascoltatori che, benché sia così presto e forse addirittura stiano facendo il ponte, mandano messaggi, anche a quelli che mandano messaggi di critica naturalmente, al 349-238-6666 per gli sms o per i whatsapp. Dalla Repubblica vi segnalo una storia bellissima, o meglio, è una storia che ce ne sono tante probabilmente come questa, ma viene raccontata su due pagine da Giampaolo Visetti, è intitolata Il Signore della Neve. Visetti è andato a San Vigilio di Marebbe in Trentino Alto Adige e ha raccolto la testimonianza di Max Villait, 34 anni, che è di professione uno che in inverno controlla i cannoni che sparano la neve artificiale. Lo chiama il fabbricatore di fiocchi che ci fa sciare a dispetto del meteo. Fino a 20 anni fa, racconta Visetti, questo mestiere non esisteva. Oggi è il ruolo cruciale che tiene in piedi l'industria più grande con la redditività più alta dell'arco alpino. E poi mi ha colpito perché naturalmente sappiamo che esistono i gatti delle nevi, quelli esistono da ben più di 20 anni, e chi guida il gatto delle nevi si chiama gattista. Viene definito l'altro mago della situazione, pronto a ricavare piste perfette per gli amanti le discese. E poi alcuni numeri: 2,5 euro il prezzo a metro cubo per la neve, quindi 2 milioni gli euro al giorno necessari per innevare le nostre piste anche quando la neve naturale non c'è, 85 euro il valore di un metro cubo di acqua trasformato in neve sciabile, 1,5 miliardi il fatturato degli impianti di risalita nel 2016, 25 miliardi il business del turismo bianco. Sempre sfogliando le pagine interne dei giornali, vorrei evitare tutti i retroscena ancora sulla crisi perché forse ce ne sono fin troppi. Veniamo invece al rinnovo del contratto degli statali. Ricorderete, l'annuncio è stato fatto a poche ore dal voto, tutto sommato era giovedì prima di votare, si era fatto questo tanto atteso rinnovo del contratto degli statali. Ora però, scrive il Messaggero, quel rinnovo diventa un rebus. L'accordo sugli 85 euro di aumento va attuato, ma il rischio stallo è reale. Resta il nodo delle regole sul pubblico impiego. Ricorderete che la Corte Costituzionale ha fatto alcuni rilievi e che vanno riscritte entro febbraio, se no comunque resta tutto appunto in stallo. A proposito di paesi, di crisi, di zone del mondo che ci dimentichiamo, sulla Stampa Giordano Stabile, inviato a Beirut, racconta: nella Libia liberata dall'ISIS, resa dei conti Tripoli, Tobruk, sapete, le due capitali perché una è ufficiale riconosciuta, l'altra no, della Libia, del della guerra civile, perché di fatto è una guerra civile che non è ancora chiusa. Per tornare un po' anche agli argomenti, dicevamo prima sulla verità, c'è un articolo di Giuseppe Cruciani che se la prende un po' con le reazioni automatiche di alcune femministe che hanno per esempio reagito alla dichiarazione del presidente del Pescara Calcio, dell'allenatore del Pescara Calcio, che ha detto che si potrebbe festeggiare i successi della squadra con lo spogliarello di una bella ragazza, non col suo. Francesco Borgonovo sulla Verità fa una recensione, prende spunto dalla recensione dell'ultimo libro di Barbara Alberti, che è dove spiega le ragioni della sua contrarietà alla pratica dell'utero in affitto. Le femministe scoprono l'utero in affitto: dal romanzo di Barbara Alberti ai saggi delle filosofe radicali, anche a sinistra si fa largo l'opposizione alla maternità surrogata. Sopravvivono però le antiche incrostazioni ideologiche e le progressiste continuano a fare da foglia di fico alle logiche delle élite. Io preferirei sempre che questi articoli fossero scritti da donne, non da uomini, su argomenti come la maternità surrogata, che sicuramente una donna può capire meglio di un uomo, credo almeno. A proposito di pratiche mediche, un aggiornamento su quello che era stato definito il super ticket della Lombardia. Sapete che la sanità è materia regionale, e in Lombardia c'erano state molte polemiche perché era stato aumentato il ticket. Libero ci spiega che è stato dimezzato sugli esami medici. Naturalmente qui il problema si lega a questioni sanitarie, mi stanno particolarmente a cuore, un po' perché mio papà ha fatto il medico ospedaliero tutta la vita e ha molto a cuore il tema della sanità pubblica, ce l'ho anch'io. Naturalmente la questione è che è difficile regolamentare bene chi ha diritto alle esenzioni sul ticket. Si rischia a volte che siano date anche a chi magari ha un reddito un reddito reale, magari non quello dichiarato, che a queste esenzioni non darebbe diritto. Sempre per restare sull'uguaglianza di genere, sui temi del femminismo, o comunque appunto meglio dire dell'uguaglianza di genere, sull'Avvenire trovate una storia abbastanza inquietante, come sempre una di quelle storie che non facilmente vengono raccontate. È la storia delle 14.000 frontaliere che ogni giorno si recano nella regione di Yerbala, nel nord del Marocco, all'enclave spagnola di Ceuta, per svolgere lavori irregolari e sottopagati. A partire dall'istruzione, l'associazione Digmun, un'altra ONG, le aiuta a ritrovare fiducia in se stesse. Donne e uomini, stesse chance. L'emancipazione femminile, però lo dicono anche i dati dell'ONU naturalmente, resta un traguardo in salita. Una bella carrellata su Libero, intitolata Da poveri a ricchissimi, quando le favole diventano realtà, le storie dei miliardari che sono partiti da zero. Fra americani, russi e cinesi c'è anche un italiano, cioè Leonardo Del Vecchio, che sapete è stato cresciuto forse non lo sapete, ma insomma è il fondatore del leader mondiale nell'occhialeria che è Luxottica, è stato cresciuto in un orfanotrofio, ha un patrimonio di 16,4 miliardi di dollari. Poi ci sono anche altri personaggi, Oprah Winfrey per esempio, la afroamericana che ha un impero dei media e ha un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari, anche lei venendo da origini poverissime con pochissime chance all'inizio. Vi segnalo, ne parlano molti giornali, La Verità ha una pagina intera, e purtroppo l'aggiornamento sugli animali a rischio. Per quanto riguarda le tigri, a rischio di estinzione. Per quanto riguarda le tigri, ce ne sono libere, pensate, soltanto 4.000, e un esemplare vale fino a $150.000. Pare che ai russi piaccia molto la carne di tigre. In Cina le catturano, le uccidono e non buttano via niente. Con le ossa fanno il vino, con il pene, pensate, una zuppa. Ancora tempo per due segnalazioni dai supplementi culturali. Agorà dell'Avvenire, un articolo di Tim Parks, uno scrittore inglese, fa bene rileggere lo stesso libro, ci dicono sempre che i classici per esempio vanno riletti, e Tim Parks si domanda: ha ragione Nabokov, per il quale alla prima lettura l'essenziale sfugge, oppure a tornare sulle stesse pagine se ne altera il gusto e la memoria? E visto che appunto, come ricordava Mauro, io mi occupo di moda per il Sole 24 Ore, soprattutto dal punto di vista economico, dal supplemento di Macro un articolo su Christian Dior, che sicuramente è stato uno dei grandissimi stilisti. La Maison compie 70 anni e tra l'altro in questo momento Orgoglio Italiano è guidata da una donna, è la prima donna a guidarla e soprattutto è un'italiana, Maria Grazia Chiuri, che prima guidava Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli. Era però l'ultima segnalazione, spero che nessuno mi accusi di aver parlato di una cosa considerata, secondo me a torto, troppo leggera la moda. Vi auguro ancora una buona giornata, un buon venerdì, ci risentiamo domani con la rassegna europea e domenica con quella dei quotidiani italiani.